allora, di torinesi, falsi e cortesi, però si dice che siamo. No, cortesi, cortesi. Ecco. Ah, no, da mia sorella, dice, la vuoi improverare tua madre? Ecco, c'è un detto in piemontese che dice, quan calom sfatera, la donna la vembela. Non ce ne ho uno, marchigiano, mannaggia. Lorenzo, ci racconti un po' la tua storia, perché cade, come si dice in marchigiano, a cocco di pippa? Dei veri e propri gatti di mare. E questa? Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Guarda un po' dove ti porto, mi travesto da Mike Buongiorno. Oh, signore mio. Ti porto a Lascia Raddoppia. Andiamo, vediamo. Sei pronta con la domandina? Ma in quizzone per me? Sì, allora, che cosa hanno in comune? Vidal, Gago. Oh, signore mio. Keita. Sì. E Berlusconi. Sono uomini molto ricchi. Sì, questo è certo, ma è un po' troppo facile. Ci arriva. Impegnati un pochino. Allora, la professione no, perché mi pare di ricordare che ci siano tre giocatori. Uno è un noto politico. Avranno una passione comune, non lo so. Allora direi che ci sei quasi. Trascurerei le donne, sì. Non andiamo a impelogarci. E restano i motori, le quattro ruote. Quindi anche a loro toccherà cambiare periodicamente i pneumatici dell'auto. Speriamo che lo facciano per la loro sicurezza. Questo è un appuntamento che non riguarda però solo questi quattro signori. Tocca a molti di noi e ne parleremo proprio oggi. 800 24 00 24. Se siete calciatori, chiamateci. Sì, esatto. O se dovete cambiare le vostre gomme. Ma c'è un'altra cosa che lega i nostri quattro uomini. Ce la facciamo raccontare dal nostro ospite, che abbiamo il piacere di avere qua in studio con noi, il professor Roberto D'Anchise, primario ortopedico all'Istituto Scientifico Galeazzi di Milano. E per chi segue la nostra trasmissione, basta il nome del nostro esperto a svelare il legame tra i quattro. Buongiorno, professor D'Anchise, benvenuto. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, da quello che ho capito, il primo ha avuto una distorsione del ginocchio. Sì. Probabilmente dalla storia che lui racconta, quindi mentre giocava il ginocchio si è girato, quindi potrebbe aver avuto una lesione del legamento crociato anteriore. Mm-hmm. Il secondo Gago. Gago ha riportato una distorsione di secondo grado, probabilmente è una lesione parziale del legamento collaterale interno, meno grave del primo. Il terzo, versamento della parte esterna. Ma adesso faccio poi un'osservazione finale. L'ultimo, un certo politico, probabilmente, considerando che non è giovanissimo, potrebbe avere un'usura dell'articolazione e quindi un'artrosi. Per quanto riguarda Keita, volevo dire che il versamento nella parte esterna non ha molto significato, nel senso che noi dobbiamo considerare il ginocchio come un contenitore chiuso. Se noi lo riempiamo di liquido, il liquido esce dove può. Sì. Nel ginocchio esce dalla parte esterna o dalla parte superiore, perché non c'è nulla che lo blocca, non c'è la rotula, non c'è il femore, non c'è la tibia. Quindi dove sia presente il versamento non è significativo. E volevo dire che, considerando queste quattro cose, noi potremmo anche aver concluso la trasmissione, nel senso che ci abbiamo messo dentro tutto, le distorsioni del ginocchio, l'artrosi, possiamo andare a casa. L'infiammazione. No? No, non vada da nessuna parte, perché qua è altro che qua, già gli ascoltatori invece cominciano a bussare alla porta e ce ne sono già tantissimi pronti con le loro domande. 800 24 00 24, tenendo conto che le gomme si cambiano due volte l'anno. Sì, e con tante polemiche, perché già vedo che gli ascoltatori le sollevano immediatamente. Le ginocchia si tengono tutta una vita. Fate mica i vostri detto. Conti. Mica detto. A volte magari anche cambiare dei certo, pezzi. Anche dei pezzi, mi sembra una giusta osservazione. Se avete cambiato qualche pezzo del vostro ginocchio, se vi è stato proposto e state lì a pensarci, 800 24 00 24. Allora forza bambini, forza, ritorniamo un po' col giochino. Allora, chi vede prima un contadino 5 punti, chi vede prima un cavallo 10 punti. Ehi, ma che succede qua? Che succede? Niente, rivende tutta la macchina sulla destra. Mi raccomando, vai piano fuori. Andiamo piano, sì, aspetta che adesso accosto. anteriore destra, come volevasi dimostrare. Vabbè, adesso comunque, senza farci prendere dallo sconforto, vediamo immediatamente di individuare dov'è la colonnina di emergenza più vicina. Ma cosa c'entra la colonnina, Furio? Ma per il servizio di soccorso ASCI? Ma desveglia di tesoro! E allora può capitare che sia un ginocchio a far mancare il suo sostegno, oppure se pensiamo alla nostra automobile può essere una ruota sgonfia a farci sentire poco bilanciati, come nel caso dei nostri poveri. Furio e Magda, per limitare il rischio brutte sorprese però basta fare la giusta attenzione alla cura delle nostre gomme, che lo ricordiamo sempre da questi microfoni, con il cambiare delle stagioni vanno anch'esse cambiate. Da qualche giorno, il 15 aprile, è scaduto l'obbligo previsto in molte zone d'Italia di circolare con le gomme invernali. C'è un mese per sostituirle con quelle estive. Cosa si rischia se ci dimentichiamo? Tra poco ne parleremo con Fabio Bertolotti, direttore di Assogomma, quindi iniziate a prenotare i vostri interventi anche su questo argomento all'800 24 00 24. Tu metti gli altri uomini in ginocchio, tu metti gli altri uomini in ginocchio, tu c'è abbastanza per restarci sotto, tu metti gli altri uomini in ginocchio, no, io metto il ginocchio negli altri uomini, no. Professore D'Anchisa, visto che non le abbiamo più messe in ginocchio da te, che poi si lamenta, eh? Il professore. Davvero, non le piace. Assolutamente, noi cambiamo. 800 24 00 24, tanto per cambiare vi ricordo il nostro numero verde, spazio tra poco alle vostre telefonate, perché la nostra Rosa della Barriera Rosa ci ha sgridato. Davvero? Sì, perché ieri abbiamo fatto attendere qualche ascoltatore. Le porteremo un dolcino, dai. Allora, legamenti, menischi, tendini, il ginocchio è un'articolazione a rischio. L'abbiamo visto, toccato con mano, sentito dalle sue parole, professor D'Anchisa, proprio raccontando che cosa era capitato alle ginocchia dei nostri quattro uomini. Il ginocchio ne ha sempre una. Se fosse una persona sarebbe proprio il classico tipo che ogni volta che lo incontri si lamenta di qualcosa che non va. Però, come lei mi insegna, professor D'Anchisa, il ginocchio è fatto male, è di costituzione cagionevole, nel senso che l'anatomia proprio lo rende tale. Insomma, l'hanno messo insieme, ma l'articolazione del ginocchio è la peggiore che ci possa essere nel nostro corpo. Perché? Perché noi abbiamo una superficie piatta, che è quella della tibia, sostanzialmente piatta, che si articola con due superfici convesse, che sono quelle del femore. Insieme non ci possono stare. Allora, madre natura ci ha messo dentro legamenti, menischi, per dare una stabilità. Però, ovviamente, non appena uno di questi elementi non funziona più, ecco che c'è il rischio che venga un cattivo lavoro dell'articolazione e quindi un'usura cartilaginea e quindi nel tempo anche un'artrosi, oltre al rischio di avere delle situazioni di instabilità. Quindi è un'articolazione che bisogna veramente tenere da conto, perché quando non funziona può dare dei problemi importanti. Vidal, abbiamo letto le interviste, si lamentava e dice ho male al ginocchio. Uh-huh. Però dire male, ho male al ginocchio ad un ortopedico è un po' pochino. Vero? Bisogna dare qualche dettaglio in più. Allora, iniziamo a dare ai nostri ascoltatori una serie di indicazioni per aiutarli a inquadrare un po' il loro problema, la loro situazione. Allora, io la prima domanda che faccio: da quando fa male? Sì. Dove fa male? Se si è gonfiato, se ci sono stati degli episodi di cedimento, di instabilità, sensazione che il ginocchio non possa tenere. Questi sono, secondo me, gli elementi iniziali per poter cominciare ad inquadrare il problema. Molte volte, in alcune situazioni, per esempio la rottura del legamento crociato anteriore, io dico sempre che la diagnosi la si può fare per telefono, perché il paziente racconta esattamente un certo percorso e uno sa già quello che c'è. Allora raccontateci il vostro percorso. 800 24 00 24, abbiamo Salvatore da Caltanissetta e Paola dalla provincia di Como, che sono molto raccomandate dalla nostra Rosa. Certo, posso leggere il messaggio di Patrizio, poi vi lascio agli ascoltatori? Sì, perché io non li leggo i messaggi. Oggi è proprio per me questa puntata. Lavoro in un negozio di gomme e i miei menischi mediali sono stati asportati. Abbiamo anche oggi eletto l'ascoltatore. Fantastico, di cuore denari. Posso intromettermi? Certo. E mi sembra molto giusto, perché chi lavora in un negozio di gomme spesso lavora in ginocchio. Ecco. Quindi sollecita le ginocchia moltissime e quindi il discorso ci sta. Ma guarda, infatti, perché noi abbiamo unito, secondo secondo lei le gomme alle perché anche ginocchia. Noi sapevamo questa cosa, avevamo ieri immaginato, perché noi cambiamo molto le gomme anche quando sei capace tu a cambiare la ma gomma? Ma figurati cosa sono capace, guarda, tra l'altro mi sono ricordata ieri che devo andare a fare il cambio e che c'è adesso questo mese di tempo, per cui ben venga la puntata. L'importante è incontrare qualcuno che sappia farlo. Guarda, voi non avete problemi. Guarda, io, mi piace. Io con questa altezza scoraggio tutti e mi lasciano cambiare la gomma da sola. Speriamo non che vero. Non mi capiti, guardi. E allora speriamo di forare una gomma in queste e vediamo chi si ferma. Ti prego, poi lo postiamo e lo mettiamo su Facebook. Salvatore, buongiorno. Lei ci darebbe una mano a cambiare la gomma? Da noi il problema esiste meno perché piove poco, quindi da questo punto di vista le cambiamo soltanto il periodo a dicembre, che per legge dobbiamo portare appresso le catene, ma non c'è l'obbligo di cambiarle secondo me. Sì, no. Le catene a Caltanissetta effettivamente. È difficile. Sono un po' originali. Senta Salvatore, ma non di gomme ma di ginocchio vuole parlare il nostro Salvatore. Sentiamo. Le spiego. Io ho 52 anni e da sempre gioco a calcio, Mi è stata riscontrata tramite una risonanza magnetica una piccola lesione al menisco centrale, la parte centrale del menisco, dovuta a sovraccarico funzionale. Io inizialmente avevo dolore, eccetera, ma sono passati circa 3 anni e io sono ritornato a giocare come prima e mi chiedo, può essere che questa piccola lesione si sia guarita da sola? È una domanda che mi sono posto. Parlo? Okay. Certo, però. No, perché è difficile parlare, interrompervi. Allora, lei ha risolto da solo il problema e mi consente di affrontare un argomento molto molto importante. Quando un paziente ha una rottura del menisco, fa la risonanza magnetica e la risonanza magnetica fa vedere che c'è una lesione del menisco. Che cosa succede? Ci sono due tipi di lesioni, cercherò di essere sintetico. Lesioni traumatiche che vanno nella stragrande maggioranza dei casi operate vanno benissimo. Lesioni degenerative, cioè da usura e dopo i 35-40 anni, questo è molto molto frequente, in queste situazioni vi è una larghissima percentuale di pazienti che guarisce per conto proprio. E attenzione, qualche volta se si fa un intervento chirurgico nelle lesioni degenerative, il risultato può non essere quello sperato, ci può essere un recupero lento, ci può essere una persistenza di dolori o addirittura ci può essere un peggioramento. Quindi lei ha fatto la cosa giusta, non ha fatto niente. Paolo, dalla provincia di Como, vediamo se anche lui... Buongiorno Paolo. Buongiorno. Anche lei si è guarito da solo? Se ha fatto a meno dei medici, anche lei, Paolo. No, io mi sono rivolto all'Istituto Ortopedico Galeazzi. Ecco qua. E se potessi fare il nome del dottore, guardi, le farei un... Spero che non sia d'Anchise. il dottor Sertoris. No, i nomi non li facciamo. Io volevo solo escludere il mio. Sì, mi scusi. Praticamente sono andato per fare, sono stato 2 volte, ho visitato la seconda volta con la risonanza, siccome pativo da parecchi anni di dolore al ginocchio, si è insospettito il dottore, mi ha detto vado a fare una visita da un reumatologo, perché per me lei non avevo una leggera lesione al menisco mediale, il corno mediale posteriore, ha detto guardi, mi ha dato il paradiso praticamente, perché sono andato da un reumatologo e mi ha trovato la cura, un'artrite psoriaca, se non mi sbaglio. Psoriasica. E sono guarito praticamente. Che è una forma di artrite che è legata alla psoriasi, che è una malattia della pelle. Che è una malattia della pelle, può dare delle sinoviti, cioè delle artriti, specialmente al ginocchio. Diciamo che è stato abbastanza fortunato, perché non sempre si riesce a risolvere il problema perché tende ad usurare la cartilagine. Comunque un altro episodio che si è risolto bene. Esatto, insomma qua stanno andando tutte bene le cose e continuate a chiamare all'800 24 00 24. I nostri ascoltatori ci chiedono anche naturalmente dei consigli per proteggere questa articolazione che nasce un po' storta, ecco, nel senso che nasce male anatomicamente, non programmata per stare insieme, perché se nasce storta è un altro problema ancora. Avete le ginocchia ginocchia storte, siamo qua. Professor D'Anchise, i muscoli, lo sappiamo, sostengono e proteggono, se vogliamo, il ginocchio. La muscolatura è essenziale per le nostre ginocchia. Mario ci scrive: quali muscoli tutelano il ginocchio e come rinforzarli? Perché allora, l'osservazione da fare è che è fondamentale avere una buona muscolatura, ma attenzione, non bisogna neanche cedere, nel senso che la nostra articolazione è fatta per sopportare un certo tipo di sollecitazione. Se questa sollecitazione viene esagerata, tende ovviamente a usurarsi. Quindi una attività muscolare, sia di rinforzo muscolare prevalentemente dei muscoli della coscia, ma direi di tutto l'arto. E attenzione, questo lo dicono, si parla sempre quando si parla di attività muscolare, esercizi di stretching, che sono molto importanti. Perché? Perché la nostra l'articolazione del ginocchio sta bene se il ginocchio è leggermente flesso, è una posizione di comodo. Se noi manteniamo questa posizione di comodo sempre, i muscoli tendono un pochino ad accorciarsi e poi diventa difficile riuscire ad estendere. Quindi rinforzo muscolare, ma anche esercizi di allungamento. Che saranno sicuramente quelli che faranno anche molti dei nostri ascoltatori, che sono dei runner. Deborah, questa è la stagione delle maratone. Mm-hmm. E molti si lamentano di quello che viene chiamato volgarmente il ginocchio del corridore. In realtà un nome specifico, la sindrome della bandelletta iliotibiale, giusto? È il nome corretto? È una delle problematiche di chi corre. Direi che è più frequente una patologia da sovraccarico femoro-roturio, cioè nell'articolazione. Cioè il ginocchio va diviso in tre parti: la parte più interna, la parte più esterna, che sono le due parti che si articolano, femore si articola con la tibia, e davanti noi abbiamo la rotula che si articola con il femore. Questa articolazione tra il femore e la rotula è quella molto sollecitata nelle attività di corsa. Oltretutto noi teniamo presente che la corsa vuol dire carico che viene accentuato dalla sollecitazione nel salto quando noi facciamo il passo della corsa. Per quanto riguarda la bandelletta iliotibiale, è vero, è una delle patologie tipiche, perché è una specie di legamento, definiamolo così, sì, che sta nella parte esterna del ginocchio, che chiaramente viene molto sollecitata nella flessione e nell'estensione del ginocchio. È una patologia difficile da diagnosticare e purtroppo difficile anche da guarire, perché non c'è la soluzione del problema. Voglio dire, uno si rompe il crociato, è lo sostituiamo, facile. Se tutto va bene, ha risolto il suo problema. La bandelletta iliotibiale, come tutte le tendinopatie, può creare delle difficoltà. Anche lì bisogna fare una certa ginnastica muscolare ed esercizi di stretching. Abbiamo, professor D'Anchise, detto che il ginocchio è complesso. Spesso la localizzazione è il momento in cui si manifesta il dolore e aiuta a fare un po' autodiagnosi, ma soprattutto aiuta poi il medico a consigliare gli esami giusti ed arrivare quindi a una diagnosi. Per quanto riguarda, ci fermiamo temporaneamente sui runner, che sono tanti e sono molto allenati in questo momento e rischiano anche di sovrallenarsi. Quali sono i dolori che possono mandare un segnale molto chiaro e dire fermati, attenzione, è un problema, è un sovraccarico, stai tirando troppo? La risposta è semplicissima: i dolori. Nel senso che la sintomatologia dolorosa è l'elemento e deve far saltare il campanello d'allarme, perché il ginocchio non deve far male. Il ginocchio può far male inteso come dolore muscolare più che con dolore articolare. Il dolore articolare è un campanello d'allarme, quindi non mi sento di dire quale parte del ginocchio possa far male oppure non possa far male. Il dolore che viene dopo l'allenamento, che differenze ha rispetto a quello che viene durante la corsa? Il dolore che viene dopo l'allenamento è meno preoccupante del dolore che viene durante la corsa, perché qualche volta può essere veramente legato a un sovraccarico. Elemento fondamentale: se passa e poi dopo, la volta seguente, non c'è più, non ha nessun significato. Se continua, bisogna fare molta attenzione. E purtroppo, ripeto, la corsa è una delle attività più pesanti per l'articolazione, e purtroppo tende ad usurare la cartilagine. Quando la cartilagine si è usurata non abbiamo quasi niente più da fare in queste situazioni. È un po' come la stoffa del nostro divano un po' vecchiotto. Bravissima. Vero? Se diventa un po' lisa. Allora, se siete sportivi, molto sportivi, se vi state allenando, se avete subito un trauma al ginocchio, magari avete giocato a calcetto, o al contrario non vi siete, come si dice, mai mossi dalla vostra scrivania, ma alzandovi a fare due passi il ginocchio è dolente, se avete seguito anche delle indagini o vi è stato suggerito un intervento, chiamateci. Il professor D'Anchisa rimane con noi sino alle 11.45, perché poi cambieremo le nostre gomme. Prima dei mercati forse c'è tempo per dare la parola ad Astrid dalla provincia di Verbania. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno. Io ho un problema. Giocando calcetto, praticamente un mese fa, aprendo la gamba esterna, praticamente il ginocchio mi fa male. Mm. Ho sentito un crack e da due settimane ce l'ho un po' gonfio sopra. Senta, e continua a giocare a calcetto oppure ha interrotto? No, ho continuato dopo, lo leggo, praticamente mi metto la fascia e nel frattempo che gioco non mi fa male, ma il giorno dopo me lo sento un po'... Insomma, al calcetto non ci si rinuncia. Sì, no. Devo dire la verità che questa è una delle osservazioni. Alla corsa e al calcetto non si rinuncia. I corridori e chi gioca a calcio è difficile fermarli. Questa è una buona cosa. Per voi ortopedici è fantastica. Non dicevo che è una buona cosa per questo. Dicevo che vuol dire che è una passione. Diciamo che la storia che racconta il nostro ascoltatore è un po' vaga. Il crack può essere legato a due elementi. O a un problema di tipo meniscale, a un problema di tipo legamentoso. Il fatto che lui abbia ripreso però a giocare dopo poco, da quello che posso capire, mi fa essere abbastanza tranquillo per quanto riguarda il futuro del ginocchio. È fondamentale però fare un controllo medico con una risonanza e una radiografia. A questo proposito vorrei dire che gli accertamenti utili sono radiografia e risonanza magnetica, molto meno significativo, tranne in alcuni casi particolari, la TAC, rarissimamente utile l'ecografia. Spesso vengono dei pazienti con una ecografia come primo accertamento che per noi non ha nessun significato. E adesso, a proposito di esami, gli esami dei mercati. Andiamo in borsa. Sentiamo i mercati. Cuore e denari. Doc, ho bucato! Riesci a tornare ai box? Sì, sì, credo di sì. Ehi, bandiera gialla, rientra. Non fare altri danni, ragazzo. È incredibile! Il pit stop più veloce che abbia mai visto. Sì, ma devi entrare in pista prima del pace car. E non sarà semplice. Allora, se avete le gomme invernali ancora montate, per tornare in gara senza una multa non sarà necessario un pit stop così rapido come quello che abbiamo sentito dal film Cars. Avete un mese di tempo, ne parleremo tra poco con Fabio Bertolotti, direttore di Assogomma, che peraltro è già arrivato, e salutiamo, un salutino veloce glielo concediamo. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Grazie di essere con noi. C'è molta confusione su questo argomento, obbligo o meno, multi in arrivo o no, ne parleremo a partire dalle 8.45, ma intanto in molti si sono già prenotati all'800. Sì, lei è capace di cambiare le gomme? Ma capace no, perché non faccio il gommista, il rivenditore specialista, no, però di gomme ne so qualcosa, certamente. Ecco. E si piega, si inginocchia naturalmente. Assolutamente. E sì. Le sue ginocchia come stanno? Relativamente bene, perché ho fatto un intervento al menisco proprio piegandomi in maniera maldestra. Ma senti un po', ma professor D'Anchisa, non abbiamo mica chiesto se è capace di cambiare la gomma, se gli capita l'intoppo in strada, allora, in autostrada. I chirurghi sanno fare dai tutto. Dai piedi però, non voglio correre il rischio di piegarmi, no, scherzo. Non mi piego. Sai che i chirurghi sanno fare tutto, no? Per definizione. Che vero? Uomini d'oro. Brava, sono d'accordo con te. Allora, 800 24 00 24, torniamo alle nostre ginocchia. Partendo dal sintomo dolore abbiamo cercato di fare una diagnosi, di focalizzare il problema, ma adesso andiamo oltre, vediamo nella pratica quali sono le strade da seguire, soprattutto quali possono essere le soluzioni adatte al nostro caso. Giovanni da Bologna, Ermanno da Firenze, un attimo di tempo, grazie. Ma professor D'Anchisa, noi ci siamo occupati del ginocchio del runner, i nostri ascoltatori che giocano a calcetto ci hanno chiamato, ma cosa rischia invece il ginocchio dello sportivo da divano? Niente, sostanzialmente. Quindi... attenzione, niente, perdita di tono muscolare, ovviamente. Il rischio c'è quando decide di non essere più lo sportivo da divano. Molte volte lo sportivo da divano un bel giorno dice: mi devo mettere in forma, e comincia a correre o comincia a fare un'attività non avendo una muscolatura sufficientemente valida, e questo è il problema. Quindi chi vuole incominciare a fare qualche cosa non avendo fatto nulla deve cominciare progressivamente, questo è l'unico rischio. 800 Giovanni da Bologna, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Il 24-24 me lo sono dimenticata. Vabbè, ma ormai lo sanno a memoria, speriamo. Sì. Giovanni? Sì. Sì, sì, buongiorno, ci sono. Ecco, volevo chiedere al dottore, io ho un problema di varismo di circa 11 gradi, che mi crea chiaramente dei problemi di instabilità, soprattutto quando poggio su una gamba. Ecco, mi è stato prospettato un intervento ad entrambe le tibie, quindi con l'applicazione di una placca in titanio per riportarle in asse, però essendo un intervento molto invasivo io non mi sono sentito di affrontarlo, anche per i tempi di degenza. Quanti anni ha? Io ne ho 49. Allora, come diceva Nicoletta, le gambe storte possono creare dei problemi. Io credo che sia giusto fare l'intervento, nel senso che il varismo vuol dire che lei ha le gambe curve un po' da cavallerizzo, come da calciatore. Ma sono anche carine, tra l'altro, posso fare questo inciso? Non sì. Voglio entrare in merito. quindi voglio dire, se comincia ad esserci una sintomatologia dolorosa, io credo che prima di avere un'usura articolare importante è giusto fare l'intervento che le hanno proposto. L'intervento si chiama osteotomia, cioè sostanzialmente si raddrizza l'osso interrompendo la corticale, creando una frattura per raddrizzare l'osso. È molto importante perché, ripeto, se avviene un'usura cartilaginea, e l'usura cartilaginea è legata al fatto che non essendoci una distribuzione del carico uniforme, certo, perché più da una parte che dall'altra, la sollecitazione sulla cartilagine è molto importante e la cartilagine si può consumare. E quando si è molto usurata non ha più senso fare l'osteotomia, bisogna pensare ad altri interventi come la protesi, che è un intervento sicuramente molto molto valido allo stato attuale delle cose, che però se si può non fare meglio. Andiamo a Ermanno che ci chiama da Firenze. Buongiorno Ermanno. Sì, buongiorno a voi. La mia domanda è questa. Io sì. Sono stato calciatore, mancino. Come mancino. Me, anch'io Ermanno sono mancina, non faccio la calciatrice. Infatti però volevo sentirla tutta questa. Ho 56 anni, 2 anni fa però ho rotto il crociato, il destro. Intervento perché sono anche un appassionato di montagna, di trekking, e ora mi ritrovo con un ginocchio destro molto più solido rispetto al mancino, probabilmente perché il mancino ha subito anche l'usura del tempo, del calcio, e mi domando se inventiamoci Ermanno, non ci ha raccontato, lei ha detto la lesione del legamento si può fare anche autodiagnosi. Mi consente di dire che oggi l'intervento per il crociato anteriore può essere fatto, direi, ragionevolmente a qualsiasi età, perché è un intervento poco invasivo, è un intervento che dà degli ottimi risultati. È chiaro che 17, 20, 25 anni è indispensabile farlo. Dopo una certa età, dopo i 40 anni, è sempre una chiacchierata che si fa col paziente per capire se c'è l'utilità di fare un intervento chirurgico. È chiaro che lo sportivo tende a farlo perché ha voglia di continuare a fare le proprie attività. Volevo precisare ancora che la mancanza del crociato non crea una situazione che non consente una vita normale. Uno vive normalmente, tranne che nei cambi di direzione o nei salti può avere un cedimento, e quindi il cinquantenne sportivo che vuol continuare a giocare a tennis, che vuol continuare a giocare a calcio, è logico che faccia questo intervento. È meglio che non faccia il salto in lungo, diciamo. Ma il ginocchio con un legamento di questo tipo, insomma, si mantiene comunque in forma? Sì. Oppure alla lunga? No, è chiaro che tutti gli interventi potremmo definirli sono un elemento negativo per l'articolazione, non siamo fatti per essere aperti, voglio dire, però i risultati quando sono buoni ci consentono di fare tutto quello che vogliamo. Lei ha parlato di legamento, vogliamo anche dare qualche indicazione del menisco, che come sappiamo un tempo, quando si rovinava, veniva tolto a pie pari, e poi ci avete ripensato. Sì, sì. E avete detto recentemente, io questo sono molto contento perché lo sostengo da un miliardo di anni, sono venuti fuori dei lavori che hanno dimostrato quello che si diceva prima, cioè qualche volta è meglio fare un trattamento conservativo nelle lesioni da usura che fare l'intervento chirurgico. Quindi diciamo che non dobbiamo lasciarci influenzare dalla risonanza magnetica. I pazienti arrivano e dicono: guardi, se io ho il menisco rotto, mi devo operare. Questa è la prima cosa che dicono. Invece non è assolutamente così. Il menisco va conservato, questo è un altro elemento importante, quando possibile nelle persone giovani, quindi si tende a fare delle cuciture dei menischi quando si può fare questo. Va asportato, ahimè, quando è rotto malamente, quando è rotto su base degenerativa, estrema attenzione. Io dico sempre che pur facendo il chirurgo rispetto molto la chirurgia, meno vi fate operare meglio è. Ginocchio valgo di Maria, che ci chiama da Roma. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Maria. Volevo chiedere al professore, che io ho fatto recentemente delle visite per cui risultava che non avevo più cartilagine, mi è stata proposta una protesi, ho 57 anni, però qualcuno ha cominciato a dire che si potevano fare degli innesti di cartilagine come alternativa all'intervento, quindi non essendo vorrei evitare l'intervento, ma non so se questo tipo di metodica può effettivamente sostituire la mancanza di cartilagine e quindi l'erosione dell'osso. Oggi come oggi, se è presente una reale erosione della cartilagine, non è possibile fare nulla se non un intervento di tipo protesico. Le cellule staminali, sì, se ne parla tanto, hanno un'indicazione nei pazienti, diciamo, relativamente giovani, con delle localizzazioni non su base degenerativa, ma più che altro su base traumatica. Abbiamo Angelo dalla provincia di Trento, prima di poi cambiare argomento e cambiare gomme, andando a parlare proprio del cambio delle gomme. Tra l'altro, Angelo, sulla questione della cartilagine hanno scritto anche molti ascoltatori proprio per l'innesto, alle 349-238-6666, speriamo di aver accontentato tutti. Ci sono oggi delle tecniche che consentono di ripristinare la cartilagine, ma le indicazioni sono estremamente precise. Nell'artrosi oggi non è scientificamente dimostrato che si possa ottenere un risultato in nessun modo. Angelo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Oggi un doppio argomento che fa piacere: il mio ginocchio e pure le gomme, perché faccio l'autista. Vedi? Il nostro secondo uomo di Cuore Denari. Ma oggi veramente abbiamo tema azzeccatissimo per tutti. L'hanno fatto per lei. Grazie. Volevo chiedere, non più tardi di ieri proprio, sono stato dall'ortopedico per una risonanza. Mi ha trovato una degenerazione del menisco destro, però mi ha detto anche di non operare. Bravo ortopedico. Non lo cambi quell'ortopedico, se lo tenga stretto. Mi ha detto che non riesce sempre l'operazione. Perfetto. Mi ha consigliato di fare delle infiltrazioni. Ecco, vorrei sapere effettivamente cosa sono queste infiltrazioni e se eventualmente fanno bene. Abbiamo due tipi di infiltrazioni sostanzialmente: le infiltrazioni di acido ialuronico, che tendono a lubrificare le articolazioni. Oggi si usa anche fare delle infiltrazioni di derivati del sangue, che viene trattato in un certo modo. Queste infiltrazioni tendono a dare un risultato superiore rispetto, in termini di dolore, di beneficio anche nel tempo, rispetto all'acido ialuronico. Però attenzione, né l'acido ialuronico né le infiltrazioni hanno un effetto sulla malattia, hanno un effetto sui sintomi, quindi è molto probabile che nel momento in cui dovesse finire l'effetto della terapia, la sintomatologia ricompaia. Comunque ha fatto molto bene, però volevo precisare un'ultima cosa: non è che non si debba mai operare la lesione degenerativa. La lesione degenerativa si aspetta, si vede un po' come vanno le cose, in molti casi si opera e abbiamo un 80% di possibilità di buoni risultati. Salutiamo il professor D'Anchise con un messaggio che ci ha mandato Giuseppe. Il professor D'Anchise mi ha risparmiato la protesi del ginocchio oltre un anno fa, che altri volevano fare a tutti i costi. Ancora va benissimo. Insomma, penso, un ortopedico. L'ho scritto io. Che, un ortopedico che non ha il bisturi facile è una garanzia. Guarda, adesso gli facciamo cambiare le gomme così lo faccio spendere io, vediamo. Grazie il professor D'Anchise. Buona giornata, andiamo a sentire a proposito di gomme cosa sta succedendo in questo momento sulle strade italiane. Cuore e denari. No, già c'hanno già ho il microfono aperto perché Pietro qua non me la fa passare liscia. No, rideva il nostro ospite perché tutte le volte che l'ho invitato questa canzone l'abbiamo sempre messa. E mi sembra ormai una tradizione consolidata, Fabio Bertolotti. Ma per lui cui... viene qua proprio per risentirla. Per risentirla e poi perché ci ha raccontato che la sua rottura del menisco si chiamava... a manico di secchio. E questa pure abbiamo imparato questa mattina. Una rottura particolare del menisco che poco fa il professor D'Anchise mi ha disegnato in un foglio. Ha fatto proprio il disegnino. Grande. Andiamo invece a parlare del tema per il quale appunto Fabio Bertolotti è stato invitato questa mattina. Allora, se la macchina del capo ha un buco nella gomma, noi questa evenienza vogliamo evitarla in tutti i modi. E per questo oggi parliamo di come prevenire i problemi alle ruote della nostra auto, alle gomme della nostra auto, facendo in modo che non si rovinino e rispettando la giusta manutenzione, che va di pari passo innanzitutto con il rispetto dei tempi per la loro sostituzione. Ma già qua abbiamo scatenato la polemica perché non abbiamo capito se questo è un obbligo o no. Allora, queste gomme invernali le dobbiamo cambiare o no entro il 15 maggio? No, è assolutamente falso e qualcuno ha mandato informazioni. Una mail appena l'abbiamo presentata. Assolutamente false. Allora, è possibile montare pneumatici invernali tutto l'anno, ma non lo dice Fabio Bertolotti, lo dice il Ministero dei Trasporti con una circolare di quest'anno del 17 di gennaio del 2014. Leggo testuale, si precisa che l'uso di pneumatici invernali non ha restrizione di carattere temporale, purché abbiano, diciamo, come riferimento i parametri in carta di circolazione, perché quello che va chiarito è che sì, perché se non lei mi parla più complicato no, di un no, medico. No, ma che cerchiamo di capire tutti insieme. Allora, ciascuna vettura ha una carta di circolazione o libretto, ci sono delle misure dimensionali e prestazionali. Se io monto quelle misure, che siano estive, che siano invernali, non ho problemi e sto tutto l'anno dal 1° gennaio al 31 dicembre un'uguale tenuta in qualsiasi condizione. Non c'è problema di sicurezza stradale e quant'altro. Se invece adotto la deroga, perché c'è una deroga che non è stata introdotta quest'anno, ma esiste dal 1992 e non è italiana, ma viene da lontano, dall'Unione Europea, e cioè ed è l'unico caso in cui si possa mettere un pneumatico con una caratteristica inferiore, cioè il codice di velocità inferiore fino a Q, cioè fino a 160 km all'ora. Se utilizzo quel tipo di pneumatico declassato, diciamo così, questo è possibile utilizzarlo nel periodo invernale. Il Ministero ha chiarito, ma qual è il periodo invernale? Quello delle ordinanze, dal 15 di aprile. Caltanissetta non ha lo stesso tempo invernale di Milano. Dal 15 novembre al 15 di aprile, poi per questi che hanno adottato questa deroga c'è un mese prima e un mese dopo, quindi fino al 15 di maggio, per poter rimontare i pneumatici in tutta la normativa. E accanto a questo parere del Ministero dei Trasporti, che valore hanno le ordinanze regionali allora? Ma le ordinanze regionali introducono l'obbligo dell'utilizzo del pneumatico invernale, non l'obbligo dell'utilizzo del pneumatico estivo, quindi deve essere chiaro, nel periodo invernale, per ragioni di sicurezza, di mobilità, di circolazione, è bene avere delle gomme idonee, cioè invernali. Questo quindi è una facoltà, non è un obbligo, che può essere, diciamo, assunta da parte dei proprietari o gestori delle strade. Per capirci, da quando c'è questo tipo di opportunità, sono più della metà le province italiane, quindi più del 50% degli automobilisti che hanno immatricolato i mezzi in Italia sono soggetti a questa ordinanza. Poi ovviamente uno ha la macchina immatricolata a Milano che non c'è l'ordinanza e va e appena esce evidentemente si trova con una normativa diversa, Novara, e può essere multato e può essere tranquillamente multato, ma quando siamo nel periodo invernale, cioè dal 15 novembre al 15 di aprile, un po' come i caloriferi, abbiamo finito il 15 di aprile, i caloriferi sono spenti ormai per tutti. Allora, queste sono, come dire, le regole generali, ma come lei sa, poi ogni ascoltatore ci chiama, ci racconta giustamente il suo caso specifico, perché magari vive in una regione, ha il suo gommista di fiducia che gli racconta qualcos'altro. Direi, Nicoletta, di cominciare a sentirli. Allora, volentieri. Cominciamo al caldo. Andiamo. Allora, Antonio dalla provincia di Matera e poi abbiamo Gianni dalla provincia di Modena, li salutiamo tutte e due. E poi anch'io chiederò cosa devo fare, cosa deve fare me medesima, perché come voi sapete viaggio parecchio e sono in partenza. Si vanno a prendere i vincis grassi che poi porti in redazione con Laura e Marco. Facciamo festa. Antonio, scusi. Abbiamo noi stiamo già pensando ai vincis grassi. Antonio, buongiorno. Vada. Buongiorno. Senta, volevo chiedere al nostro esperto, io dovendo sostituire le gomme termiche. Esatto, perché quelle invernali le chiamiamo termiche, vero? Sì, le chiamiamo invernali, termiche, da neve, lamellari, sono sempre la stessa cosa. Okay. L'importante è capire. Okay. Senta, volendo cambiarle, il gommista, avendo sulla carta di circolazione, come diceva lei, le 185/70 Verona 14, quindi VR14, per le marche che gestisce lui, vorrebbe fornirmi un H14, cioè 185/70 H14. Posso farlo? Incorro in qualcosa di... Mi scusi, allora, stiamo parlando di tipologie invernali o estive? No, questo è importante perché allora deve sostituirle, evidentemente vuol toglierle quelle invernali e mettere le estive. Se sono gomme di tipo estivo, cioè prive della marcatura M+S sul fianco, bisogna riportare esattamente quello che è riportato in carta di circolazione. Quindi non può fare nessuna modifica, perché la regola generale è quella che vanno montati i pneumatici esattamente identici con le caratteristiche dimensionali, quindi la larghezza, l'altezza e il diametro del cerchio esattamente. Quindi come può negoziare con il suo gommista, Antonio? Perché io non so, cioè a me potrebbero mettere qualunque cosa e convincermi di la tutto. La negoziazione la fate sulla base della marca, sulla base delle caratteristiche prestazionali, ma non quelle previste, diciamo, da un punto di vista normativo e legislativo, perché quelle vanno assolutamente rispettate. Perché attenzione, questo tipo di prescrizione non lo stabilisce il produttore del pneumatico, ma è il produttore dell'autoveicolo e viene certificata dal Ministero dei Trasporti. In buona sostanza, se io monto delle gomme che non sono quelle come da carta di circolazione, modifico le caratteristiche costruttive del veicolo e quindi metto in non sicurezza il veicolo stesso. Quindi, mi scusi, è come se fosse il numero di scarpa. Noi abbiamo il 38, poi possiamo scegliere se prenderla gialla, verde, blu, décolleté, allacciata francesina, ma ha fatto un esempio più che calzantissimo. Basta, mi tolgo le cuffie e vado a casa. Io non avevo una domanda così bella sulle ginocchia stamattina, mannaggia. Ma mi sono preparata prima. No, però insomma è pertinente l'osservazione, evidente. Senta, ammettendo di doverle cambiare, quanto ci costa questo cambio dal gommista? Il cambio, cioè il ripristino, potrebbe essere un ordine di grandezza attorno ai 10 euro a gomma. Quindi una quarantina di euro ce la possiamo fare. Sì, questo è un ordine 25, 30, 40, questo è l'ordine di grandezza. Attenzione, poi molto spesso c'è all'interno di questo costo anche la custodia. La custodia, perché avendo quattro gomme uno non ha il posto dove mettere, è bene anche conservarle. Come nel mio caso, ha visto che ha pizzicato anche il mio caso, però adesso devo capire cosa devo fare io, perché se dalla Lombardia vado nelle Marche, cosa mi può succedere in questo periodo qualora magari scoprissi di non avere le carte in regola o le gomme in regola. 800 24 00 24, sentirei la domanda di Gianni e gli rispondiamo dopo. Gianni, buongiorno. Buongiorno. Telegrafico, 30 secondi. Allora, telegrafico, ex taxista con esperienza, io quando sono andato in pensione mi sono comprato una macchina un po' particolare, una multipla metano, e ho montato le gomme termiche, quelle quattro stagioni. Ottimo. Di cui sono contento, molto. E di cui parliamo dopo il giornale radio, Gianni. Grazie. Andiamo a sentire le notizie. Cuore. Cuore e denari. Ognuno di noi è un centro di ruota che rende partecipi di un meccanismo che gira. E molto dipende da noi. Passiamo attraverso milioni di istanti. La vita davanti è un mistero. Vabbè, ci emoziona sempre un po', no? Enrico Ruggeri. Sai che io debole per quest'uomo, chissà se è capace di cambiare le gomme. Secondo me sì. Ma gli artisti cosa vuoi che sappiano fare? Ma dai. Lui sa. Lui sa, l'importante è che conosca le scadenze per cambiare quelle invernali e mettere le estive, se naturalmente lo indica il suo libretto di circolazione, quello della sua auto, Fabio Bertolotti, direttore di Assogomma. Certo, certo. Allora, La scadenza, ripetiamola ancora, esatto, è il 15 di aprile, dal 16 di aprile in avanti non c'è più l'obbligo di montare pneumatici invernali, ecco, è bello, non l'obbligo di montare pneumatici estivi, questo deve essere molto ben chiaro. C'è un mese di tempo dal 15 di aprile al 15 di maggio per rimontare gli estivi per coloro i quali hanno pneumatici invernali con un codice di velocità diverso da quello riportato in carta di circolazione. Allora, lo scorso anno e negli anni passati la normativa era un pochino più dirompente, no? E quindi obbligava proprio al cambiamento della gomma invernale mettere l'estiva con l'avvicinarsi chiaramente della stagione più calda. Quando facevamo, Nicoletta, questa trasmissione, ovviamente gli ascoltatori si arrabbiavano perché consideravano questo obbligo una gabella, un'imposizione, l'ennesima tassa, chiamiamola come vogliamo. Perché costa un botto. Perché costa un botto. Adesso mia. Che questo obbligo non c'è più, ed è più morbido, non va bene lo stesso, perché ci sono molti gommisti che ci stanno scrivendo, tempestando di sms, arrabbiati. Non siamo mai contenti, Bertolotti. Ma non lo so, forse è tipico dell'italiano medio, insomma, e io sono italiano come tutti noi, ma le norme sono chiare, le norme di legge sono quelle che ho raccontato prima e gli obblighi sono quelli. Dopodiché, da un punto di vista di opportunità, certamente è opportuno montare pneumatici invernali in inverno e ripristinare, quindi tornare ai pneumatici estivi in estate. Questo perché? Perché si ottimizzano le prestazioni, nel caso specifico, adesso torniamo al treno di gomme estive che avevamo lasciato dal nostro gommista, avremo degli spazi di frenata che sono decisamente migliori rispetto ai pneumatici invernali. Quando le temperature superano ben oltre i 20 gradi ci può essere una differenza anche del 20%. Ovviamente riduciamo il consumo di carburante e anche il consumo dei pneumatici stessi, quindi l'opportunità è di ritornare al treno di gomme estive ora, ma non c'è un obbligo di ritornare al montaggio di gomme estive. Allora, eravamo rimasti l'ascoltatore che ci ha chiamato prima della pausa per il giornale radio e ci aveva spiegato che lui ha una macchina un po' particolare, una multipla diesel, se non mi ricordo male, e in ogni caso faceva una domanda sui pneumatici che stagioni. Esattamente, quattro come l'Evergreen. Allora, l'Evergreen, che diciamo quattro stagioni, una ottima pizza, però allora non esiste carciofini, se non sono prosciutto e quant'altro. Bene, nel campo dei pneumatici, da un punto di vista tecnico, non esiste la classificazione dei pneumatici quattro stagioni, all season che dir si voglia. È una indicazione commerciale di ciascun produttore di pneumatici, che quindi dà delle connotazioni diverse. In altre parole, l'ascoltatore deve controllare se sul fianco del pneumatico c'è la scritta M più S, è da considerare assimilabile a un pneumatico invernale. La fermo subito perché mettiamo dentro, visto che è una domanda simile, anche quella di Sergio da Lodi. Buongiorno, dice... certo. Sì, buongiorno, ascoltando ho già sentito la risposta alla mia domanda. Perché? Volevo sapere se la sigla M più S, pur non essendo una gomma termica, poteva essere una gomma che poteva essere usata tutto l'anno. Assolutamente sì. Che cosa significa intanto M più S? È un acronimo inglese, M sta per mud, fango, S sta per snow, neve, quindi è una combinazione, in buona sostanza è per, diciamo, applicazioni di terreno sdrucciolevole, questo è il senso, ma è una cosa vecchia. E questa, quindi, questa sigla indica che una gomma può essere utilizzata tutto l'anno, tutto l'anno, pneumatico, no, pneumatico. Questa sigla M più S assimila le gomme che hanno una caratteristica invernale. Dopodiché, per avere prestazioni ancora superiori in campo invernale, oltre alla scritta M più S, c'è un simbolo di una montagna con tre punte e un fiocco di neve, è il cosiddetto Three Peak Mountain Snowflake. È pure carina, c'è un bel disegno. Quindi questo è molto, molto semplice. Senti, ma è quello estive, mettono l'omino, il sole con l'ombrellone. No, non c'è l'ombrellone, il costume da bagno, però il senso è dove non troviamo niente sono estivi, dove troviamo invece delle NQS sono invernali. Quindi per ma guarda che adesso me ne vado a guardare. Molto, molto semplicemente. Adesso scendiamo, andiamo in garage e guardiamo le tue. Se sono invernali e hanno le caratteristiche, cioè i numeri e le indicazioni prestazionali come da carta di circolazione, si può girare tutto l'anno. Ma questo non è, è una prescrizione di legge, non è un consiglio. Il consiglio è sempre montare estivi in estate e invernali in inverno. E quindi accontentiamo tutti i gommisti che pensavano che stessimo dicendo una cosa contraria. Senta un po', Bertolotti, nel caso in cui avessi uno pneumatico irregolare e mi pizzica la polizia stradale, che cosa rischio? Dipende la irregolarità, ma se l'irregolarità è un pneumatico con un codice di velocità non corretto, in buona sostanza, come dicevo prima, abbiamo alterato le caratteristiche costruttive del veicolo. Questo vuol dire una sanzione che va da 400 rotti euro fino a 2000 euro, più il ritiro della carta di circolazione e la mandata in revisione del mezzo, perché abbiamo messo in ma non i 2000 sicurezza euro, per esempio la sanzione massima. Beh, è la sanzione massima appioppata in quale caso? Quando come si è completamente usurato, dire, come il menisco? Certamente non sarà in relazione al soggetto, ma dipende anche la condizione in cui si trova tutto il mezzo, tutta la vettura, perché se poi oltre a questo il pneumatico è liscio, il pneumatico è tagliato, magari non omologato, perché abbiamo tutta una serie di stranezze, è chiaro che poi si rischia di avere, però il problema non è la sanzione, il problema è mettersi in sicurezza, e la logica è quella di avere montati pneumatici invernali nel periodo invernale, estivi nel periodo estivo, con le caratteristiche di serie, cioè guardando alla carta di circolazione. Allora, qui hai la scelta nel muferrato, eh? Dai, dove vai, vai. Allora, dove vai, vai bene. Iniziamo con Asti, buongiorno ad Andrea, e poi ci spostiamo ad Alessandria che andiamo a trovare Silvio. Andrea, buongiorno. Ma noi vorremmo anche andare in tante altre parti d'Italia, quindi 800 24 00 24, chiamateci dalla Sicilia, dalla Puglia e da ogni altra regione per capire un po' lì come viene disciplinata la questione delle gomme. Andrea. Buongiorno. Sì. Allora, premesso che io ho montato le gomme estive l'altro ieri, sono un automobilista che in periodi come quello dell'ultimo mese... Ma perché così presto, Andrea? Come mai l'altro ieri? Come mai così presto, visto che sta ad Asti, quindi ancora magari qualche giorno di freddo lo fa? Ecco, è proprio il motivo della mia decisione legato proprio alla domanda che sto per farvi. Vale a dire, nell'ultimo mese, in cui anche dalle mie parti la temperatura è stata costantemente intorno ai 20 gradi e anche sopra, io come utilizzatore della vettura mi sentivo quasi, mi veniva il dubbio che stessi consumando troppo le gomme invernali date le temperature, e quindi mi sono detto, è bene che appena possibile monti quelle estive. Quindi la mia domanda è la seguente: è possibile dare un'idea a che livello di temperature dell'ambiente e magari anche dell'asfalto è veramente consigliabile montare i pneumatici estivi, perché il degrado dei pneumatici diventa serio? Di quelli invernali, ovviamente, scusate. Sì, allora, non è così preoccupante come vedo che lei la sta vivendo. Innanzitutto, d'altronde dobbiamo lo sa che il rapporto che un uomo giusto ha con la sua auto ma è molto giusto, diverso è da quello che ha con la fidanzata, insomma. È giusto sapere. Allora, i pneumatici invernali sono consigliati quando le temperature mediamente scendono sotto i 7 gradi. Quindi questa è, e man mano che scendono più si avvicina allo zero, che quest'altro peraltro abbiamo visto molto ma stiamo parlando di temperature medie, quindi attenzione che ancora oggi, questa mattina, in tutto il nord le temperature minime non erano assolutamente attorno ai 20 gradi, ma avevamo temperature tutte sotto ai 10 gradi, quindi mentre il discorso estivo è da montare quando le temperature mediamente vanno ben oltre i 20 gradi, quindi quando abbiamo delle temperature veramente estive. Noi l'anno scorso abbiamo fatto prove che sono vedibili, guardabili sul nostro sito www.pneumaticisottocontrollo.it. Grazie per avercelo ricordato. Dove ci sono tutte queste informazioni anche tecniche, e quindi ciascuno può fare ciò che crede. Bene, in quella circostanza a Bologna a fine maggio facevamo facevamo prove estivo contro invernale, sia con in occasione di manto stradale bagnato che non manto stradale bagnato, e lo spazio di frenata per esempio era del 20% migliore quello estivo rispetto all'invernale. Da un punto di vista di consumo del pneumatico non è pensabile che ci siano consumi se non nell'ordine di forse un 5% in più rispetto all'estivo, ma con temperature attorno ai 30 gradi. Quindi attenzione, nessuno pensi che a 20 gradi improvvisamente, come qualcuno ha detto esatto, ieri. Esatto, mi ha tolto la parola di bocca un grande TG nazionale, Nicoletta, ha detto è che è scivolato su questa buccia di banana, esatto, dicendo che si sciolgono, che si sciolgono le gomme, non si è mai visto. Queste sono veramente delle... Senta, prima invece c'era un'ascoltatrice, non c'entra nulla con queste norme delle quali stiamo parlando questa mattina, un'ascoltatrice che ci raccontava che quando si fora il suo pneumatico risolve con lo spray, ma noi donnine che non siamo in grado di cambiarle le gomme... Beh, con lo spray cosa vuol dire? Se sono quegli spray che sono autosigillanti, a questo punto sì, è al posto... Però è un tampone momentaneo, immagino. Ma può essere anche inutile, francamente, perché molto semplicemente, se è un buco piccolo, un forellino dovuto a un chiodo o quant'altro, è un qualcosa che può funzionare. Se per dire è dovuto a uno squarcio della gomma, perché molto semplicemente avevo la gomma sgonfia, ho urtato contro un marciapiede e quindi ho tagliato in maniera importante la gomma, quella gomma è da buttare, e lo spray non serve a niente. Cara mia, allora Silvio che ci sta aspettando da Alessandria, buongiorno. Insomma, visto che il suo collega astigiano era molto preoccupato per queste temperature, lei Silvio? Sì, io fuori strada, buongiorno. Buongiorno. E naturalmente ho le gomme da fuori strada, ovvio. Nel senso che secondo me servono per andare in terreni sdrucciolevoli. Certo. Ecco, cosa devo fare? Posso circolare in strade normali, autostrade? Ma oppure... Lei avrà delle gomme, allora le gomme fuoristrada, un fuoristrada come ce l'ho io, ha delle gomme M più S, che sono anche non invernali, ma sono mud and snow, quindi fango e neve tassellate, quindi con anche delle caratteristiche e delle mescole diverse. Se lei ha delle gomme di questo tipo, che sono con le caratteristiche come la carta di circolazione, lei gira tranquillo, senza nessun problema. Ma la montagnetta ce l'ha quella con i tre punti? Bisognerebbe chiederlo a lui, basta guardare sul fianco. Ce l'ho in garage adesso, quindi non so. Oggi li abbiamo incuriositi guardate la montagna. Ecco. A proposito di mare e montagna, Bertolotti, mi dica un po', stasera parto per le Marche, ore 18, gomme controllate naturalmente, ma ho ancora quelle invernali, quelle che io chiamo così, quelle termiche, e perché quelle estive appunto sono in custodia. Nessun problema. Sono a posto? Assolutamente. Chiamo lei. Tranquillo, perché dovrebbe avere, se ha delle gomme invernali, M più S con le tre montagnette, con le caratteristiche prestazionali, basta guardare e confrontare. Carta di circolazione si va a vedere sul fianco del pneumatico. Ma in ogni caso, anche se dovessi essere obbligata a cambiare, ho comunque tempo fino al 15 maggio. Fino al 15 di maggio. Perfetto. Per sostituirle. Allora andiamo al nostro Andrea Vitali, abbiamo ancora tempo per sentire prima, ci aiuta ad andare a Vitali Natale, a proposito di scritture mai? Di bisogna scritto anche un bel messaggio. No, bisogna naturalmente mandare questi testi e controllare un po' anche lo stile di scrittura, ma anche l'ortografia. Natale. Ottimo. Ci scrive, si dice lo pneumatico e gli pneumatici, anche questo ormai quindi è un classico, quindi invitiamo Natale a scrivere anche lui a Cuore Denari e Vitali, magari oltre a essere bravo con l'ortografia anche una buona penna. A te come viene da dire? Io sbaglio, gli pneumatici. Io dico invece lo pneumatico e i pneumatici, o gli pneumatici, no, mi viene nello stesso modo. Allora, la regola grammaticale corretta è lo e gli, ma siccome si intorcina la lingua a tanti, molto semplicemente anche la lingua Garzanti ha stabilito che si può usare il povero e Bertolotti, che deve andare pure a studiare questo. La grammatica. Fantastico. Ma io anche mi chiedo l'anno prossimo su che cosa la intervisterò, veramente non vedo l'ora di saperlo. Ma chi lo sa. Paolo da Milano, buongiorno. Loli, i Paolo. Lei. Buongiorno. Ci ha chiamato il Paolo, come dicono qua a Milano. Esatto, che il Paolo. Buongiorno. Paolo. Buongiorno, la mia domanda è questa: volevo sapere, io avendo un'auto aziendale, quindi il cambio gomme non lo gestisco io, ma è responsabile delle auto. Pure io, Paolo, però devo andare dal gommista anch'io a farlo sto lavoro. No, certo, io ho sostituito le gomme estive e invernali con quelle estive, diciamo. Anche lei, di già? Sono usurate, sono già consumate. Sì. Se mi dovessero fermare e dovessi intercorrere nella multa, vado anche a interagire sui miei punti della patente? Allora dipende, se sono pneumatici lisci, allora dipende dove il mezzo è stato trovato a circolare, perché questo dice il codice. Allora se va al supermercato dietro casa, magari non è una questione di supermercato, è questione di ambito stradale. Se è in città sicuramente avrà una sanzione di 80 euro e senza sottrazione di punti di demerito. In autostrada è più calata. Se invece viene fermato in autostrada, oltre agli 80 euro c'è un altro, mi pare 200 euro come sanzione pecuniaria e 2 punti di demerito. Oltre al pericolo che naturalmente corre viaggiando con auto. Poi c'è il problema della sicurezza stradale. Paolo, che ovviamente. Cara mia, andiamo. Allora, sì, noi andiamo. Lei scrive? Come? Ha una buona penna, scrive? Non lo so, sì, abbastanza. Allora, ci provo. Senta gli incipit di Cuore Denari e Vitali, che ha scritto per noi Andrea Vitali, uno per il cuore e uno per i denari, e poi chiediamo ai nostri ascoltatori di completarli inserendo però nel loro testo delle parole che Deborah e io scegliamo di giovedì in giovedì. Iniziamo a dire i racconti che abbiamo selezionato la scorsa settimana. Per il cuore abbiamo selezionato il racconto di Camilla, mentre per i denari quello di Nicola. Partiamo con i nuovi incipit, iniziamo da quello di cuore. Nel mondo parallelo della neuropsichiatria infantile, un bambino delle elementari viene segnalato dalla maestra al direttore didattico perché a suo modo di vedere c'è qualcosa che non va. Sulle prime l'ha giudicato distratto, beccandolo più volte a guardare dalla finestra. Nonostante l'avesse ripreso, con dolcezza prima e fermezza poi, il bambino non se n'è dato per inteso. Ha sospettato che fosse un poco sordo, ma la minaccia di una nota da far firmare a mamma e papà ha raggiunto lo scopo di scuoterlo un po'. Infine, dopo aver assegnato un tema intitolato «Parla della tua famiglia», che il bambino ha svolto senza nominare il padre, la maestra ha compreso che il suo alunno soffre per un'immane tragedia familiare che sta ancora elaborando. Dopo averla ascoltata, per tutta risposta il direttore didattico prende sotto braccio la maestra e, sorridendo... Vi è piaciuto? Allora cimentatevi, completatelo, andate sulla pagina di Cuore Denari e nel testo inserite la parola ginocchio. Ma va, e adesso andiamo a sentire invece l'incipit, la proposta di oggi per l'incipit di denari. Nel mondo parallelo del denaro, gli dei dell'Olimpo, che avevano dettato regole cui gli uomini avrebbero fatto bene ad attenersi, si riunirono, come erano soliti fare di tanto in tanto, per una revisione critica delle stesse regole al fine di metterle al passo con i tempi. Zeus, che come al solito presiedeva l'assemblea plenaria, diede la precedenza alle richieste più urgenti, quelle che necessitavano di una rapida decisione affinché gli uomini non pensassero che gli dei si fossero dimenticati di loro o, come si usa dire, dormissero sugli allori. Si levò allora la voce di Mercurio, che aveva un importante messaggio da parte di Remida. «Il silenzio nel mondo degli uomini non è più d'oro», disse Mercurio, «denaro piuttosto». Un mormorio si levò dall'intera assemblea. «Perché?» chiese Zeus. Toccò a un omuncolo richiamato dalla terra per l'occasione spiegarlo. Ecco, principiò a dire, mi trovavo al bar una mattina vicino al mio avvocato. E neanche a dirlo, la parola che dovete inserire per completare questo racconto è pneumatico, già Bertolotti l'aveva immaginato. Attenti all'articolo. Allora, grazie a Fabio Bertolotti per essere stato con noi. Le manderò tante mail dei nostri ascoltatori che vogliono un chiarimento individuale, personale, quindi ci deve aiutare. Ci a microfoni proveremo. Spenti, come sempre. Cara, intanto Andrea ti aspetta ad Ancona e io lo saluto e grazie per le indicazioni meteorologiche che mi ha dato, che mi fanno molto piacere, perché io domani ti lascio sola, cara. Sì, comportati bene. Sola, mi comporterò bene. Parliamo di dieta vegetariana. Venerdì domani di magro. È venerdì di magro, ci sono persone che questa scelta l'hanno fatta per 365 giorni all'anno. Un bacio a tutti, buona Pasqua e noi ci risentiamo settimana prossima. Grazie. e denari.